Il primo racconto è una parabola sulla Settimana Santa, la morte e la resurrezione di Gesù Cristo. Si chiude con una poesia che un pecoraio improvvisa, ispirato e incredulo, rivolgendosi al crocifisso che aveva appena ricavato da un pero lavorando nel tronco. Dice: «Tu da pero, in vita tua, non hai mai prodotto un frutto, una pera. Ora che sei crocifisso, vorresti forse far miracoli?» Purtroppo Peppe ricorda la poesia in modo alquanto smembrato. Ora andate, vieni nel tente. Perché vieni nel tente, stannate? Vieni nel tente, per cosa ignoro, non assisti che io? Perché prima c'era il Signore che camminava per il mondo. E non veniva una cosa, benediceva, veniva il lavoro e benediceva, veniva chi dei fumietti e benediceva. E non veniva la lega e benediceva, tutto bene e benediceva. I parenti sono una mala esempio. Perché? Perché vedi proprio che ce ne che levano tutte belle feste e fanno il sapere che dico buono guarda. Allora poi che vediamo vogliamo a buon annato, non è buon annato, perché il buon annato viene, cosa io ve lo dicevo tutto questo, oddio l'ammazzare, l'ammazzare, poi c'è la parabola, capite, la Semana Santa, un signore, scappavo e se ne veniva a Palma, se ne veniva a Inesta, Inesta faceva batteria, che si cantava, si accettava luce, e se ne veniva a Palma, non a Palma che c'era la domenica a Palma, poi aveva preso lui per santo pure, poi lo vendere santa, la Madonna va a cercare la figlia e diceva, ma figlio non è, beh ammazzare, perché l'ammazzare? Qua dicevano a parlare la Semana Santa, che poi c'era la parabola della Semana Santa. Poi venne il Sabato Santo, poi venne il Sabato Santo, poi sono le campane, poi ci arrivò il Signore e poi c'era Pasqua. E poi Pasqua, pigliavo e c'era un po' curato, andavo di giorno e dicevo, ma che bello stabolito, se non stabolito c'era un bel paio di prani, mi ingenuto. E Giorgio dice, questo paio di prani, che ne appare di cuca? Non fa niente, allora non si tappero. Non si stava appero. Non ti impara la vita, stetto, per la Madonna, appero non faceva mai. Ma vediamo come, dice, allora, un taglio e faccio un concepesso. E poi c'è un bello concepesso. Ma il mio come popolare, era il padre che fa questa cosa. Poi c'è un bello concepesso. E miracolo non faceva. Due concepesse, non poteva fare mai il miracolo che era di pelo. E poi ci metteva la poesia. Per il nascito di molte eccellenze, non poteva andare la vita, appena non facesse. Ora che se il concepesse si presenta, appena non facesse il miracolo, lo parlo, non fa un miracolo. E poi non va un mondo, se si sfrigge.